Ehi là a tutti e bentornati ad Deep Dive. Oggi ci tuffiamo in un argomento super interessante. Sì, decisamente. Il mondo dei talenti, dell'intelligenza artificiale e come si relazionano con i colossi della tecnologia. In particolare abbiamo dato un'occhiata al report The State of AI Talent 2024 di Ezechi. E Interessante. devo dire che ci sono un po' di Ah, sorprese. sì. Sì, sembrerebbe che le grandi aziende tech, quelle tipo Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, insomma, quello che tutti conosciamo, non siano poi la meta finale per molti di questi talenti. Eh Ah, questa è una sorpresa. Di solito si pensa che tutti vogliono lavorare per queste aziende. già, invece sembra che per molti esperti di IA entrare in una di queste Big Five sia più come un trampolino di lancio. Capisco, un modo per farsi le ossa e poi spiccare il volo. Esattamente, una specie di master in una delle migliori università del mondo, ma per l'intelligenza artificiale. E questo cosa comporta? Beh, innanzitutto un altissimo tasso di turnover all'interno dei dipartimenti di queste aziende. Un continuo viavai di persone, quindi. Esatto. E in secondo luogo un flusso di talenti che si sposta verso altri settori. Beh, Tipo. il report indica soprattutto le aziende che sono in forte crescita e che hanno bisogno di esperti di intelligenza artificiale. Interessante, quasi come se le big tech stessero formando i cervelli che poi andranno ad innovare in altri settori. Eh sì, è proprio questa l'impressione, quasi come Questo. se stessero involontariamente sovvenzionando lo sviluppo dell'IA in altri campi. E chissà che questo non porti a una diffusione dell'expertise in settori molto diversi tra loro. Magari accelerando l'innovazione in aree che vanno ben oltre la tecnologia. Già, tipo la medicina, l'energia, la finanza. Esattamente. Ma la domanda è, cosa spinge questi talenti a lasciare le grandi aziende tech? Non dimentichiamoci che offrono stipendi stellari e risorse quasi illimitate. Certo, ma forse non è tutto rose e fiori. O Giusto, potrebbe essere la ricerca di ruoli più specializzati. di un impatto più diretto in settori come, ad esempio, quello sanitario. Che tra l'altro sta assumendo a ritmo frenetico proprio esperti di IA. Eh sì, il report sottolinea proprio questo. Il settore sanitario è una calamita per i talenti dell'IA. D'altronde, la possibilità di applicare le proprie competenze a sfide così importanti per l'umanità deve essere molto stimolante. Vero. Ma potrebbe anche essere la voce di maggiore autonomia, che ne so. O di una cultura aziendale diversa, magari meno frenetica e più orientata al benessere dei dipendenti. E a questo punto viene da chiedersi, se le big tech non sono la destinazione finale, quali sono le conseguenze di questo spostamento? Beh, potrebbe portare ad un'accelerazione dell'innovazione in settori che prima non erano toccati dall'IA. E quindi ad un impatto ancora più grande sulla nostra vita quotidiana? Esattamente. Ma potrebbe anche influenzare la capacità delle big tech di mantenere il loro dominio nello sviluppo dell'IA. Beh, In che senso? se i migliori talenti vanno altrove, è possibile che emergano nuovi leader, aziende innovative che offrono un ambiente di lavoro più stimolante. Capisco. Insomma, il rapporto tra talenti dell'intelligenza artificiale e Big Tech è molto più complesso di quanto sembri a prima vista. C'è Assolutamente. un flusso continuo di competenze che si muove al di là di quelle cinque grandi aziende e questo ha il potenziale di cambiare completamente il panorama dell'innovazione all'IA. Di Già, è affascinante vedere come questo scenario si evolve. questo ci porta alla domanda finale, quella su cui vi lascio riflettere. Se le Big Tech non sono la destinazione finale per le menti più brillanti dell'IA, chi guiderà il futuro di questo campo? Chi saranno i nuovi protagonisti di questa rivoluzione tecnologica? Una domanda. Eh già. Grazie per essere stati con noi in questa puntata di The Deep Dive. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.